Scheidanze. Jimmy l'indiano conosceva a memoria le scogliere frastagliate della baia di Scheidanze. Sapeva dove crescevano i ciuffi di alghe e che i loro lunghi steli, simili a tubi ondeggianti, stavano aspettando di avvolgersi attorno alla sua elica. Quel giorno il fronte della baia era calmo e sopra di lui c'era un ampio cielo blu. Tutto sembrava sicuro, ma Jimmy sapeva quanto fosse insidioso il fondo della baia di Scheidanze. Per questo motivo si sdraiò a prua della sua barca, scrutando ansiosamente nell'acqua e facendo gesti a Luisa, sua moglie, che era al timone. Il motore si fermò lontano, ci fu il rumore del blocco e il gorgoglio dell'ancora che sbatteva e si stabilizzava, e poi il gemito della piccola canoa che veniva spinta fuori bordo e un rumore come di schiaffo quando questa toccò l'acqua. Jimmy portò prima il cane da pastore e me sulla spiaggia in modo che potessi mettermi subito al lavoro. Poi tornò a prendere Luisa e la figlia dei missionari. Scheidanze era più aperta di Tanù. Gli alberi si trovavano più lontani dalla riva. Dietro la baia, un'altra punta si insinuava profondamente nel terreno, così che la luce arrivava anche da dietro il villaggio attraverso l'acqua. Non si vedeva il suolo. Sopra la spiaggia era tutta una crescita rigogliosa. La terra era così piena di vitalità che ogni seme che veniva soffiato sulla sua superficie germogliava. La vegetazione cresceva a mucchi nella fitta boscaglia. A Scheidanze la crescita verde era così fortemente propizia che le piante erano tutte intrecciate tra loro, crescendo fino al limite delle proprie capacità. Erbacce e animaletti invertebrati prosperavano nella ricca umidità. Memorie antiche emanavano da questo luogo per incontrare gli indiani. Lo si vedeva nei loro occhi che si illuminavano e lo si sentiva nelle rapide parole sommesse che si dicevano in Haida. Le chiacchiere della figlia del missionario nella solenne Scheidanze risuonavano come il campanello di una pecora fuori da una chiesa. La spiaggia era ampia. Dietro i tronchi il terreno degradava un po' verso il sito del vecchio villaggio. Ora era soffocato da un groviglio verde, solo un tetto grigio era ancora accovacciato tra i cespugli e una fila malconcia di pali totemici circondava la baia. Molti di essi erano pali mortuari, con le parti frontali squadrate in cima, scolpite con disegni di uccelli e di bestie. I pali erano eretti, ciascuno nel suo buco, e dietro alle facciate intagliate erano stati scavati per essere usati come bare. Da alcuni di essi, i più vecchi e rotti, si intravedevano teschi che facevano capolino dalle fessure. A destra di Scheidanze c'erano due coni gemelli di terra e roccia. Erano coperti fino alla cima da alberi e sterpaglie. La terra si estendeva oltre questi monti e incontrava le scogliere frastagliate della baia. Per raggiungere la casa ci facemmo largo in mezzo alla vegetazione, sopra e sotto di noi. La casa era di tipo vecchio, ma era stata un po' riparata dai pescatori di Halibut che la usavano ancora di tanto in tanto. I muri erano pieni di crepe e buchi. Sul pavimento di terra giacevano pietre annerite dal fuoco. Sopra di esse, nel tetto, c'era un grande buco per il fumo. Aveva una falda che poteva essere regolata in base al vento. Lungo il muro erano inseriti dei giacigli e c'era un tavolo rudimentale fatto di legno che i pescatori avevano trovato alla deriva. Gli indiani in realtà siedono e appoggiano le loro cose sul pavimento. Quando il fuoco prese, le nostre coperte vennero stese sulle pedane e la pentola dello stufato di Luisa fu messa a cuocere. Il luogo era autentico. Ci eravamo avvicinati alle cose vere. A Scheidanze non c'erano finzioni. Quando arrivò la notte ci accoccolammo nelle nostre coperte. La notte era immobile. Solo le onde sciaguattavano lente e uniformi lungo la spiaggia. Se si era rivolti verso il muro, l'odore del mare penetrava dalle fessure e impregnava le narici. Se ci si girava verso l'interno, l'odore era quello delizioso del fumo di legna del nostro fuoco sul pavimento di argilla. La mattina presto Jimmy riaccendeva le braci, poi usciva e ci portava l'acqua ghiacciata della sorgente per lavarci il viso. Liberò dalla vegetazione un piccolo sentiero, come un tunnel verde dalla casa alla spiaggia, in modo che potessimo andare e venire facilmente. Io uscii per disegnare i pali. si innalzavano in una lunga fila disordinata per tutta la lunghezza della baia da una parte all'altra, ma per quanto inclinati fossero, i pali Haida non perdevano mai la loro dignità. Sembravano forse più tristi quando cadevano in avanti e più severi quando si rovesciavano all'indietro. Erano scoloriti di un colore argento rosato e screpolati dal sole, ma nulla poteva renderli miseri o poveri, perché gli indiani vi avevano posto dentro pensieri forti e avevano creduto sinceramente in ciò che cercavano di esprimere. Gli alberi contorti e gli alti legni alla deriva lasciavano intendere che Skedans potesse essere tanto feroce quanto calma. Era sincera in tutto. Kamshiwa. Tanu, Skedans e Kamshiwa si trovavano abbastanza vicine sulla mappa, eppure ognuna di esse era completamente diversa dalle altre quando la si visita. Tutte hanno l'umidità della West Coast, ma Kamshiwa sembra sempre gocciolante e nebbiosa, il suo fogliame sempre esposto alla pioggia. La pioggia di Kamshiwa ha infradiciato i miei fogli da disegno ed è gocciolata tra i miei colori. Nel villaggio di Kamshiwa era rimasta una sola casa, grande, bassa e desolatamente abbandonata, con la porta accuratamente serrata con un lucchetto accanto a un buco nel muro. Passammo una notte di disagio in quella vecchia casa. Il gatto di Luisa e la figlia dei missionari si comportavano sempre allo stesso modo quando pioveva. Tutte le nostre ossa erano indolenzite dal freddo. La pioggia, attraverso il buco del fumo, buttava nel nostro fuoco grandi gocce. Con le coperte umide e senza comfort, superammo la notte. Al mattino, Jimmy accese un fuoco così caldo che gli schizzi di pioggia sibilavano quando ci cadevano dentro. Uscii a lavorare sulla spiaggia impregnata e Jimmy montò una specie di riparo sul mio cavalletto in modo che i rivoli d'acqua mi scendessero sul collo anziché sul quadro. Ma quand'anche avessi posseduto gli arti di un millepiedi, non sarebbero bastati a tenere insieme le mie cose, né a sfidare la furia degli elementi verso il mio riparo, i miei attrezzi e il mio umore. Attraverso il buco sul lato della casa potevo sentire i miagolii lamentosi della figlia dei missionari e del gatto. Gli indiani e gli elementi si rapportano tra loro come fratelli, adattandosi gli uni agli altri senza lamentarsi. I miei indiani non mi hanno mai detto: "Sbrigati a finire, così possiamo andare a casa e star più comodi". Gli indiani sono a loro agio ovunque. Non lontano dalla casa, un grande corvo di legno era montato su un palo piuttosto basso. Le sue ali erano appiattite contro i fianchi. A pochi metri da lui si ergeva un palo vuoto. Il suo compagno doveva trovarsi lì, ma ormai era marcito da tempo, lasciando il palo abbandonato nel muschio, fatiscente e solo a guardare le ossa di indiani morti, perché questi due grandi uccelli erano stati collocati ognuno a un lato della porta di una grande casa che era stata stipata di indiani morti durante un'epidemia di vaiolo. La crescita prorompente aveva nascosto casa e ossa molto tempo fa. La pioggia aveva trasformato la polvere di ossa in fango. Questi giovani e forti alberi erano forse stati nutriti da quella polvere di ossa indiane. Erano cresciuti intorno al vecchio corvo fatiscente, riparandolo dai venti laceranti, ora che era vecchio e marcio, perché la pioggia filtrava attraverso il muschio che cresceva sulla sua schiena e nella cavità delle sue orbite. I totem dei Kamshiwa erano scuri e incolori, il legno sbiadito per la pioggia battente. Quando Jimmy, Luisa, il gatto e la figlia dei missionari mi videro rientrare in casa attraverso il buco e mi sentirono dire «Fatto!», saltarono in piedi. Luisa si mise a fare le valigie e Jimmy andò a preparare la sua barca. Il gatto era arrabbiato. Alla pioggia di fuori preferiva dormire acciambellato nel cappello di Luisa vicino al fuoco. Anche la figlia dei missionari si rianimò mentre arrotolava le coperte. Il ricordo di Kamshiwa è di desolata solitudine affogata dalla pioggia battente. La nostra barca si diresse verso il mare e quando doppiammo la punta, Kamshiwa divenne improvvisamente un fatto lontano. Sophie. Sophie bussò delicatamente alla porta del mio studio di Vancouver. Cestini? Ho dei cestini! Erano bellissimi, fatti dalla sua gente, cesti indiani della costa occidentale. Ne aveva di grandi in un panno legato ai quattro angoli e di piccoli in un sacco di farina. Aveva un neonato legato alla schiena con uno scialle, una bambina aggrappata alle sue gonne e un ragazzo dalla faccia pesante che arrancava dietro di lei. «Non ho soldi per i cesti», dissi. «Soldi non importano», rispose Sophie. «Magari hai vecchio mantello, gonna a ruota, buona per il cestino». Volevo quello grande e rotondo, il prezzo era di $8. «Il mese prossimo andrò a Victoria, riporterò alcuni vestiti e prenderò il tuo cestino». La invitai ad entrare per riposare un po' e diedi ai ragazzi pane e marmellata. Quando legò i suoi cestini, lasciò fuori quello che desideravo. Portatelo via, dissi. Ci vorrà un mese prima che io possa andare a Victoria. Allora porterò con me i vestiti e verrò a prendere il cesto. Ora tieni tu. Poi paghi, disse Sophie. Dove vivi? Missione di Nord Vancouver. Come ti chiami? Io, Sophie Frank, tutti mi conoscono. La casa di Sophie era spoglia ma pulita, aveva 3 stanze. Quando faceva freddo, Frank, il marito di Sophie, toglieva tutte le pareti divisorie perché il caldo del focolare arrivasse dappertutto. Il pavimento della casa era pulito e lavato. C'erano una sedia, un tavolo e un letto per la famiglia. E poi c'era un'altra sedia con sopra una lampada a carbone e olio. Sophie spinse i bambini in un angolo, stese i miei vecchi vestiti sul pavimento per valutarli e fu soddisfatta. Così, dopo che ebbe testato la mia rettitudine commerciale, iniziamo una lunga, lunghissima amicizia durata 40 anni. Ho visto Sophie felice, triste, malata e ubriaca. Le ho chiesto perché facesse questa o quella cosa, abitudini indiane che non capivo, e la sua risposta è stata sempre: le signore gentili lo fanno sempre. Questo era l'ideale di Sophie, essere gentile. Ogni anno Sophie aveva un nuovo bambino, quasi ogni anno ne seppelliva uno o una. Le piccole tombe dei suoi figli e figlie erano disseminate in tutto il cimitero. Non ho mai saputo che più di 3 dei suoi 21 figli fossero vivi contemporaneamente. Quando aveva ormai 50 anni e tutti i suoi figli erano morti, Sophie aveva pianto tutte le sue lacrime. Poi prese a bere. «Ho un nuovo bambino! Ho un nuovo bambino!» Sophie, seduta sul pavimento della sua casa, mi vide entrare dalla porta aperta e agitò la culla che adibiva ai marmocchi. Due bambine si rotolavano sul pavimento. Il neonato era vicino a lei, in una culla. Sophie tolse il telo che copriva la cesta e mostrò il povero corpicino magro. Sophie stessa era piccola e sciatta. I suoi capelli neri spuntavano folti e forti ai due lati del viso, di qua e di là della riga, e pendevano in 2 trecce gemelle sulle spalle. I suoi occhi erano tristi e con le palpebre pesanti. Tra i 2 zigomi prominenti e arrotondati, il naso era piatto e si allargava in punta. Il suo carnoso labbro superiore era imbronciato e spigoloso e si arricciava su una fila di denti malati, cercando di alleviare un dente dolorante e di zittire un bambino che piangeva. Aveva un corpo piccolo e fragile, la schiena dritta e onesta, le mani e i piedi piccoli di un'indiana. L'inglese di Sophie era abbastanza buono, ma quando c'era suo marito Frank, lei diventava muta come un piatto vuoto. Perché non vuoi parlare prima di Frank? Sophie. Frank impara l'inglese a scuola, io no. Frank ride delle mie parole in inglese. Quando eravamo sole, invece, ci angottava come un passero. A maggio, quando il villaggio era imbiancato dai ciliegi in fiore e l'acqua blu del Burrard Inlet si insinuava quasi fino alla porta di Sophie con solo una striscia di sabbia grigia e tavole per camminarci sopra, e quando la città di Vancouver era più bella da guardare dall'altra parte della baia che da visitare, amavo prendere il traghetto per la North Shore e andare da Sophie. Alle spalle del villaggio si ergevano le montagne, sormontate dai grandiosi leoni, 2 cime gemelle bianchissime e azzurre. Le montagne più vicine avevano tutte le sfumature del fogliame giovane, tenero e grigio-verde, sempre più verde, fino a che, quando erano vicine, si vedeva che l'erba del villaggio le ricopriva tutte. Le galline si pavoneggiavano con le loro nidiate, i marmocchi, i cuccioli e i gattini si rotolavano dappertutto. Era davvero bello trascorrere una giornata nella riserva in primavera. Io e Sophie andammo prima a vedere le tombe dei suoi bambini. Sophie prese da un chiodo sul muro la sua migliore gonna a quadri, quella con 3 file di nastri di velluto intorno all'orlo, e si legò un fazzoletto di seta giallo intorno alla testa. Qualunque fosse il clima, indossava sempre il suo grande scialle, stringendolo con le braccia, con la frangia che le scivolava tra le dita. Quando passeggiava con me, Sophie indossava le sue scarpe, se se ne ricordava. Dall'altra parte della baia si vedeva la città. La riserva indiana era un mondo diverso, niente fretta, niente affari. Percorremmo la tortuosa strada in salita fino al cimitero. Casa Min, Tommy, George, Rosie, Maria, Mary, Emily e tutti gli altri erano lì sotto un groviglio di viti. Vagammo alla ricerca delle tombe di Sophie. Alcune avevano piccole croci di legno, altre delle semplici pietre. Due bambini erano sepolti fuori dal recinto del cimitero. Non erano vissuti abbastanza a lungo da essere battezzati. Visto? Ora ho una lapide per Rosie. Sembra molto bella, deve essere costata un sacco di soldi, Sophie. L'uomo delle tombe mi ha fatto un buon prezzo, ha detto: "Hai comprato molte, molte lapidi da me, Sophie. Forse a mano che ti morirà qualche altro bambino, vorrai altre lapidi, così ti faccio un buon prezzo." La cucina di Sophie era gremita di donne eccitate. Erano venute a vedere i gemelli nuovi di zecca di Sophie. Sophie era su un materasso accanto al fornello. Le gemelle erano in piccole ceste intrecciate da lei stessa. Le bambine erano avvolte in cotone idrofilo che faceva sembrare i loro visi ancora più scuri. Erano legate nelle loro ceste e fissate al bordo del materasso di Sophie, accanto al fornello della cucina. I loro faccini bruni e rugosi erano come patate cotte nella loro buccia. Le manine non più grandi di ragnetti marroni. Erano commoventi quei bebè così piccoli. Tutte erano eccitate per loro. Mi sedetti per terra vicino a Sophie. Sophie, hai detto che se fosse nata una femmina le avresti dato il mio nome? Beh, qui ce ne sono due e io ho un nome solo. Come faremo? La più grande e migliore è la tua, rispose Sophie. Emily, battezzata col mio nome, visse 3 mesi. L'altra, Maria, solo 3 settimane. Io ho comprato la lapide di Emily, Sophie quella di Maria. La follia di Sophie si scatenò dentro di lei come un leone che ruggisce nel petto di una colomba. Guarda, disse lei, tenendo in mano un fazzoletto rosso e giallo, con pezzetti di vetro rotti e gesso di Parigi annodato per gli angoli. Questo moccioso ha rotto i fiori per la mia tomba. Costano $5 ciascuno e ora sono rotti. Cattivo, cattivo. Vieni con me a parlare dal poliziotto. Il municipio aprì il fazzoletto sul tavolo, reggendone un capo davanti agli occhi del poliziotto e mostrando i pezzi del fiore rotto mentre io parlavo. Questo ragazzaccio ha rotto i fiori per la mia tomba, disse, dimenticando nella sua furia di essere timida con le parole inglesi. L'uomo di legge fu gentile con lei, disse: È un peccato, Sophie, cosa vuoi che faccia? Fai in modo che il ragazzo mi ricompri altri bellissimi fiori per la mia tomba. Beh, il ragazzo non ha soldi, ma posso fare in modo che la sua vecchia nonna paghi un po' ogni settimana. Sophie guardò a lungo i pezzi rotti e scosse la testa. Quella vecchia donna non ha soldi. La rabbia di Sophie stava svanendo, scalzata dalla compassione. La giovane donna nei confronti della vecchia nonna. Il mio problema non interessa alla vecchia donna, disse Sophie, racimolando i pezzetti. Rimprovera molto il ragazzo, poliziotto, ma non far pagare la nonna. D'accordo, Sophie. Al centro della stanza di Sophie c'era una gonna nera stesa sopra la cassa da imballaggio. Su di essa si trovava la piccola bara bianca. Una candela accesa era alla testa, un'altra ai piedi. La piccola morta nella bara teneva in braccio una bambola. Da quando gliel'avevo portata una settimana prima, non l'aveva quasi mai lasciata andare. Gli occhi vitrei della bambola fissavano fuori dalla bara, oltre le palpebre chiuse della bambina. Anche se l'aveva già affrontata 19 volte, la ventesima non fu più facile. Le sue due amiche Susan e Sara erano lì, accanto alla bara, e piangevano per lei. La porta esterna si aprì ed entrò una mezza dozzina di donne con lo scialle calato sulla fronte e il volto truce. Si avvicinarono alla bara e guardarono dentro. Poi si sedettero intorno a lei sul pavimento e cominciarono a piangere, prima con mugolii di bambini dolcemente, poi più forte ancora, con violenze, forti ululati, torrenti di lacrime scoppiavano dagli occhi e rotolavano giù per le guance. Lo fecero anche Sophie, Sara e Susan. Il suono era orribile, come quello di cani torturati. All'improvviso si fermarono. Sophie andò al secchio e prese dell'acqua in una bacinella di latta, prese un asciugamano in mano e andò a turno da ciascuna delle ospiti, tenendo la bacinella mentre si lavavano il viso e si asciugavano sull'asciugamano. Poi le donne uscirono tutte, tranne Sophie, Sara e Susan. Questo pianto andava avanti a intervalli da 3 giorni, da quando la bambina era morta. Sophie era esausta. C'erano state anche tutte le lunghe settimane della morte per tubercolosi di Rosie da affrontare. «Sophie, non potresti sdraiarti e riposare?» Lei scosse la testa. «Nessuno dorme in casa degli indiani finché i morti non vanno al cimitero». I letti erano stati tutti portati via. «Quando è il funerale?» «Non lo so, il prete va a Vancouver, non verrà per altri 2 giorni. Credo di avere abbastanza soldi se vieni in fretta». Non c'è problema, tranne che per i soldi. Appoggiò la mano sull'angolo della piccola bara. Visto? L'uomo bara pensa che la scatola per il bambino indiano non è importante. Le saldature della piccola bara economica si erano rotte. Mentre io e Sophie scendevamo per la strada del villaggio, incontrammo una donna indiana che non conoscevo. Fece un cenno a Sophie, mi guardò e fece una mezza pausa. Sophie aveva la bocca serrata, i suoi piedi nudi battevano veloci sul suolo mentre passavamo davanti alla donna. «Vai in chiesa adesso?» mi chiese. La chiesa cattolica aveva 2 torri gemelle. Ampi gradini conducevano alla porta d'ingresso, che era sempre aperta. L'interno era luminoso e immobile, tranne che per il vento e gli echi del mare. Le finestre erano di vetro colorato. Quando ci si inginocchiava, gli sgabelli e i banchi di legno scricchiolavano. Il silenzio si nascondeva in ogni angolo. L'odore della chiesa sembrava polveroso dopo la fresca aria di mare all'esterno. I fiori di carta erano artificiali, la corda della campana penzolava inerte all'ingresso. Era una corda nuova e puzzava di catrame. Fiori di carta si ergevano rigidi davanti alla Vergine. Bruciava sempre qualche candela. Tutto, tranne quei bagliori di fiamma, era immobile. Quando uscimmo dalla chiesa, ci sedemmo per un po' sui gradini e io chiesi: «Chi era quella donna che abbiamo incontrato, Sophie?» «La signora capo gioca a Pilano». «Oh, vorrei conoscerla. Perché è passata così in fretta? Voleva fermarsi». «Non voglio che tu conosca la signora capo». «E perché?» «Tu sei amica mia, non sua». «Ma il mio cuore ha spazio per più di un'amica, Sophie». «Tu sei amica mia, non voglio che la signora capo ti abbia». «Ma tu rimani sempre la mia prima e migliore amica, Sophie». Scosse la testa, la bocca ostinatamente serrata. Andammo a casa di Sara, la zia di Sophie, una donna magra, i cui occhi, il naso, la bocca e le rughe erano contorti in una perenne espressione di dolore. Un tempo aveva avuto un cuore allegro, ma il dolore aveva calpestato l'allegria. Giaceva su un letto drappeggiato con stracci bianchi e puliti che penzolavano dai pali. Anche la parete dietro il letto era pesantemente imbottita di giornali per evitare che le correnti d'aria allontanassero il suo lumatiz. «Ciao Sara, come stai?» «Emily, Emily di Sophie!» Le rughe di dolore si allontanarono per lasciare spazio al sorriso di Sara, ma tornarono subito a contorcersi per il dolore. «Non so perché ho preso il lumatiz, Emily. Non lo so. Non lo so!» Povera Sara. Il suo cuore allegro e il suo corpo tormentato erano sempre in contrasto. Si passava il polso sul naso e diceva «Non lo so. Non lo so!» dopo ogni osservazione. «Addio, Emily, di Sophie. Torna presto. Mi piace che tu venga. Non so perché ho dolore, tanto dolore. Non lo so, non lo so». Dissi a Sophie: «Vedi, gli altri sanno che sono la tua grande amica. Mi chiamano Emily di Sophie». Era felice. Accanto alla casa di Sophie, da un lato viveva Susan e dall'altro la signora Johnson, vedova indiana di un uomo bianco. La casa della vedova era pulita oltre ogni dire. La stufa era uno specchio, il pavimento era bianco come un lenzuolo lavato. Le mani della signora Johnson erano abili e sempre indaffarate. Le sedie da cucina in fila avevano ognuna il suo cuscino. Il copriletto all'uncinetto e i copricuscini ricamati, tutti opera delle mani della signora Johnson, erano lisciati con cura. Il marito della signora Johnson era stato un capitano di mare. Lo aveva amato profondamente e non si era risposata, nonostante le molte offerte di matrimonio dopo la sua morte. Una volta venne l'agente indiano e disse: «Signora Johnson, c'è un brav'uomo che ha una fattoria e dei soldi in banca. È timido, perciò mi ha mandato a chiedere se volete sposarlo». «Dica a quel brav'uomo, grazie, signora agente, ma gli dica anche che la signora Johnson ha avuto amore solo per il suo Johnson morto». L'altra vicina di Sophie, Susan, partoriva e seppelliva bambini quasi con la stessa velocità di Sophie stessa. Le due donne ridevano l'una per l'altra e piangevano l'una per l'altra. Con i bambini sulle spalle e le ceste sulle braccia, passavano sul traghetto per Vancouver e vendevano le loro ceste di porta in porta. Quando venivano nel mio studio si riposavano e bevevano il tè con me. Il mio pappagallo, il cane da pastore, i topi bianchi e le immagini dei totem le interessavano tutte. «E hai anche i fiori in June», disse Susan. «Fiori indiani?» Indicò le felci e le cose selvatiche che avevo portato dal bosco. La casa di Sophie era chiusa. C'erano una catena e un lucchetto al cancello. Andai da Susan. «Dov'è Sophie?» «Sophie malata, ha un occhio malato». Andai all'ospedale. Il piccolo reparto indiano aveva 4 letti. Presi un gelato e l'infermiera lo divise in 4 porzioni. Nel letto, in un angolo, piangeva una bambina indiana per la nostalgia di casa, in un altro brontolava una vecchia, in un terzo c'era una giovane madre con un bambino e nel quarto letto c'era Sophie. C'erano dei fiori, la stanza era luminosa, mi sembrava che i 4 visi marroni sui 4 cuscini bianchi dovessero essere più felici e più a loro agio qui, piuttosto che sdraiati sui materassi lerci sul duro pavimento del villaggio, con tutta la confusione familiare che li circondava. Com'è bello qui, Sophie. Ah, l'ospedale non serve a molto, Emily. Ma cosa c'è che non va? Un brutto letto. Cosa c'è che non va nei letti? Si muove, si scuote tutto il tempo. Se mi muovo io, si muove anche il letto. E si rotolò per mostrarmi come funzionavano le molle. Io sono all'antica, Emily. Mi piace il pavimento della cucina per quando si è malate. Susan e Sophie erano nella mia cucina, dondolando le schiene doloranti avanti e indietro, scuotendo alternativamente la testa e ridacchiando con gli occhi chiusi per qualche scherzetto. Ora vai a vivere a Victoria, Emily, si lamentò Sophie, e non vedremo mai quei bambini, mai. Nessuna delle due donne aveva un bambino sulla schiena in quei giorni, ma ognuna aveva una piccola tomba nuova nel cimitero. Avevo raccontato loro dei bambini gemelli di un'amica. Andai al telefono. Signora Dingle ha detto che potrei portare Sophie a vedere i gemelli. Certo, quando vuoi, fu la pronta risposta. Venite, Sophie e Susan, ora possiamo andare a vedere i bambini. Le madri di tutti quei piccoli tumuli tombali rimasero a guardare e riguardare i floridi neonati bianchi che scalciavano e si stiracchiavano sul letto. Le donne dicevano in continuazione: «Oh mio, oh mio!» La mano di Susan si insinuò sotto lo scialle per toccare la gamba del bambino. La mano di Sophie scattò e schiaffeggiò quella di Susan. La madre dei bambini, la signora Dingle, disse: «Va bene, Susan, puoi toccare il mio bambino». Ma gli occhi di Sophie fulminarono Susan per aver osato fare ciò che lei stessa desiderava tanto fare, ma non osava. Nascose le mani sotto lo scialle e mi sussurrò: «Le signore gentili non toccano, Emily».